Il barometro della libertà di stampa che RSF pubblica mensilmente è un modo per riassumere quello che è lo stato della libertà di stampa nel mese in oggetto, per cui quando esce il barometro cosa fa? Sostanzialmente dà i dati al momento di quanti giornalisti sono stati uccisi, di quanti sono stati messi in carcere oppure minacciati, picchiati, quanti media sono stati censurati. È un modo semplice ed efficace per comunicare lo stato della libertà di stampa nel mondo. Ecco, il barometro è un po' il punto e il riassunto mensile di questi dati. Ad esempio, il mese di ottobre abbiamo monitorato nel mondo 3 giornalisti uccisi, 19 incarcerati, quindi detenuti, 100, che porta il totale a 127, quindi 19 sono nel mese di ottobre, 52 giornalisti minacciati o comunque picchiati e 31 media censurati. Quindi insomma la libertà di stampa giorno per giorno viene violata. Certo, viene violata, tendenzialmente purtroppo, questo è un grosso problema, i reati contro la libertà di stampa vengono compiuti da chi detiene il potere, cioè tutti i reati commessi al mondo, questo statisticamente, contro i giornalisti, sono commessi da re, ministri, regnanti, dittatori, cioè da chi detiene il potere politico sullo Stato. I casi di reati commessi da gruppi di interesse diverse sono pochi, di fatto riguardano sostanzialmente solo il Bangladesh e la Colombia, che sono due paesi democraticamente democratici, dove c'è un sistema di democrazia reale, nel senso che vengono fatte elezioni eccetera, però sono due stati che hanno moltissimi reati a danno di giornalisti. Perché? Perché ci sono gruppi di interesse criminale da una parte, politico dall'altra, che hanno individuano nella stampa un nemico, perché i giornalisti fanno il loro mestiere, quindi vanno a raccontare le cose illecite, i fatti illeciti, i reati che questi gruppi commettono. Il mondo occidentale poi non è esente da questo tipo di pratica? Il mondo occidentale non è esente, bisogna fare delle distinzioni. Noi parliamo di giornalisti uccisi, incarcerati ingiustamente, minacciati, giornali chiusi, testate chiuse, eccetera. Questa è la realtà in alcune zone del mondo e la realtà più degenere. Il mondo occidentale ha un grado di libertà maggiore, perché se uno va a vedere la classifica mondiale della libertà di stampa, i paesi occidentali sono tra i primi posti. Perché? Perché è un fatto culturale, nel senso che noi abbiamo avuto come mondo occidentale 200 anni fa la rivoluzione, più di 200 anni fa la rivoluzione francese, con i principi dei diritti dell'uomo, che poi è stata ripresa anche nella Bill of Rights americana, per cui c'è una storia legata al diritto e ai principi dell'uomo che ci ha portato a un certo livello. Sicuramente nel mondo occidentale ci sono problemi, i problemi sono legati ad alcune realtà specifiche, ad esempio c'è il caso italiano, dove RSF dà un giudizio molto negativo per la forte concentrazione dei media, c'è il caso ad esempio della gestione della libertà di stampa da parte degli Stati Uniti d'America fuori dai loro confini, quindi in Iraq, in Afghanistan, c'è il problema legato a Israele nella gestione della libertà di stampa fuori dai propri confini, e quindi nella West Bank e nella striscia di Gaza, c'è il problema legato ad esempio alla Danimarca e al Portogallo, che hanno approvato leggi sulle fonti dei che obbligano i giornalisti a rivelare le proprie fonti dopo il settembre 2001, problemi ce ne sono, bisogna fare delle macro differenze. I problemi del mondo occidentale per fortuna sono presenti e purtroppo reali, ma non così gravi rispetto ad altre zone del mondo, cioè è difficile che un giornalista in un paese occidentale rischi la vita per fare il suo mestiere, invece succede spessissimo in altre zone del mondo. Avete notizie dei giornalisti francesi? Non abbiamo notizie dei giornalisti francesi, se non appunto quelle che sono state pubblicate dagli organi di stampa. Si sa che sono vivi, RSF ha raccolto parecchie firme, più di 10.000 firme chiedendo la liberazione, e c'è stata anche una serie di manifestazioni promosse proprio da Reporters sans Frontières in Francia per la loro liberazione e contatti con le realtà del mondo islamico. Il problema è che non si riesce bene a capire se è una non volontà dal gruppo che li detiene di liberarli o se è reale quello che il gruppo ha detto, cioè che ci sono problemi logistici sul terreno e diciamo attacchi da parte delle truppe americane, per cui loro non hanno la possibilità di trovare un mediatore e liberarli. Siamo in attesa.